tende. Il m'imagine quand que io di sarne menser palco la holocanda Logan sale casi mappado che saran che itti motteda attamui tallenio macciarotto nannio già Yeah.